pur soli una volta, veniamo un po' a noi. Cara Sandrina, mi spiego in due parole, ardo, moro per te. Quel brio, quel vezzo, subito mi colpi. Signor, che niente, pura villanella. E che l'amore conosce ragione, uguale a tutto. Ma una donzella onesta non permette, non deve, che s'avvilisca. Non più, cara. Quel volto nobilita la gente, non l'avvilisce. Andiamo! Che sperate? Voglio farti mia sposa. Già direte che sono. Dico che sei un'ardita insolente, temeraria importuna. Permettete, signor. No, senti, aspetta. Mia cara, non partire. Se tu sapessi, son fuor di me. E smania che tu molto nel cuore, ne so se sia speranza oppur timore.